Capitolo 92esimo. Dedalo e Talo. Le origini di Dedalo sono ancora oggi discusse. Sua madre è chiamata da taluni Alcippa, da altri Merope, da altri ancora Ifinoe, e tutti gli attribuiscono un padre diverso, benché concordino nell'affermare che egli apparteneva alla famiglia reale di Atene e poteva vantarsi dunque di discendere da Eretteo. Dedalo era un ottimo fabbro, poiché Atena stessa l'aveva iniziato a quell'arte. Uno dei suoi apprendisti, Talo, figlio della sorella di Dedalo, Policasta o Perdice, l'aveva già superato in abilità all'età di soli 12 anni. Talo raccolse un giorno l'osso della mascella di un serpente o, come altri dicono, una spina di pesce e, accortosi che se ne poteva servire per tagliare un bastone a metà, ne copiò il modello in ferro e inventò così la sega. Questa e altre utili invenzioni, quali la ruota da vasaio e il compasso per tracciare i cerchi, gli procurarono così vasta fama ad Atene che Dedalo, il quale rivendicava il merito di aver inventato la sega, ne divenne oltremodo geloso. Si fece dunque accompagnare da Talo sul tetto di un tempio di Atena sull'Acropoli e, fingendo di indicargli qualcosa che si muoveva a grande distanza, lo spinse giù dal cornicione. L'invidia non sarebbe tuttavia bastata a indurlo a quel gesto, ma egli sospettava Talo di avere rapporti incestuosi con sua madre Policasta. Dedalo si precipitò poi ai piedi dell'Acropoli e chiuse il corpo di Talo in una sacca, proponendosi di seppellirlo in un luogo deserto. Interrogato dai passanti, rispondeva di aver raccolto un serpente morto, come la legge prescriveva, il che non era del tutto falso, poiché Talo era un eretteide. Ma ben presto apparvero macchie di sangue sulla sacca e il delitto fu scoperto. L'Areopago condannò Dedalo all'esilio per omicidio. Secondo un'altra versione, invece, egli fuggì prima che avesse luogo il processo. Ora l'anima di Talo, che taluni chiamano Calo, Circino o Tantalo, volò via sotto forma di pernice, mentre il suo corpo fu sepolto là dove era caduto. Policasta si impiccò quando ebbe notizia di quella morte e gli ateniesi eressero un santuario in suo onore presso l'Acropoli. Dedalo si rifugiò in uno dei demi attici, i cui abitanti presero da lui il nome di Dedalidi, poi riparò a Cnosso in Creta, dove Reminosse fu ben lieto di accogliere un artefice così dotato. Egli visse colà per qualche tempo, godendo di grandi favori, finché Minosse, saputo che Dedalo aveva aiutato Pasifae ad accoppiarsi con il toro bianco di Posidone, lo rinchiuse nel labirinto con il figlio Icaro, la cui madre, Naucrate, era una delle schiave di Minosse, ma Pasifae li liberò entrambi. Non era facile, tuttavia, fuggire da Creta, poiché Minosse faceva sorvegliare tutte le navi e offrì inoltre una ricca ricompensa a chi avesse catturato Dedalo. Dedalo costruì allora un paio di ali per se stesso e un altro paio per Icaro. Le penne più grandi erano intrecciate le une alle altre e le più piccole erano saldate con della cera. Dopo aver legato le ali alle spalle di Icaro, Dedalo gli disse con le lacrime agli occhi: «Figlio mio, stai attento, non volare mai troppo in alto, perché il sole farebbe sciogliere la cera, né troppo in basso, perché le piume potrebbero essere inumidite dal mare». Infilò poi le braccia nelle proprie ali e si alzò in volo. «Seguimi da vicino», ordinò al figlio, «e non cambiare direzione». Mentre si allontanavano dall'isola verso nord-est, battendo ritmicamente le ali, i contadini, i pescatori e i pastori che alzarono lo sguardo verso di loro, li scambiarono per dei. Quando si furono lasciate Nasso, Delo e Paro alla sinistra e Lebinto e Calimne alla destra, Icaro disobbedì agli ordini del padre e cominciò a volare verso il sole, inebriato dalla velocità che le grandi ali imprimevano al suo corpo. A un tratto Dedalo, guardandosi alle spalle, non vide più suo figlio, ma soltanto delle piume sparse che galleggiavano sulle onde sotto di lui. Il calore del sole aveva disciolto la cera e Icaro era precipitato in mare, annegandovi. Dedalo volò a lungo in quel luogo, girando in tondo, finché il cadavere emerse. Lo portò allora in una vicina isola chiamata ora Icaria, dove lo seppellì. Una pernice appollaiata su una quercia lo osservò scavare la fossa, squittendo di gioia. Era l'anima di Policasta, finalmente vendicata. L'isola diede poi il suo nome anche al mare circostante. Altri non credono a questa storia e dicono che Dedalo fuggì da Creta su una barca fornitagli da Pasifae e si diresse verso la Sicilia. Mentre si accingeva a sbarcare su un'isoletta in compagnia del figlio, costui cadde in mare e annegò. Aggiungono che fu Eracle a seppellire Icaro. Dedalo, in segno di gratitudine, scolpì in suo onore una statua così somigliante che quando la vide, a Pisa, Eracle la scambiò per un rivale e la abbatté con una pietra. Altri ancora dicono che Dedalo inventò le vele e non le ali, per poter battere in velocità le navi di Minosse, e che Icaro, manovrando il timone con poca perizia, annegò quando la barca si capovolse. Dedalo continuò a navigare verso occidente finché, sbarcato a Cuma nei pressi di Napoli, dedicò colà le sue ali ad Apollo e gli eresse un tempio dal tetto d'oro. In seguito visitò Carnico in Sicilia, dove fu ospitalmente accolto da re Cocalo e visse tra i siciliani costruendo molti splendidi edifici. Frattanto Minosse aveva allestito una grande flotta e partì alla ricerca di Dedalo. Portò con sé una conchiglia di tritone e ovunque giungesse prometteva una ricompensa a chi fosse stato capace di farvi passare da un capo all'altro un filo di lino. Egli sapeva che soltanto Dedalo era in grado di risolvere quel problema. Giunto a Carnico, egli offrì la conchiglia a Cocalo, proponendogli di tentare la prova, e Cocalo la passò a Dedalo, che subito scoprì come fare. Legato un filo sottilissimo a una formica, praticò un forellino sulla punta della conchiglia e indusse la formica a introdursi nelle sue spirali interne, ungendo di miele questo foro. Poi legò un filo di lino all'altra estremità del filo più sottile e la formica li fece passare ambedue attraverso il forellino. Cocalo portò la conchiglia a Minosse, chiedendo la ricompensa promessa, e Minosse, certo di aver trovato finalmente il nascondiglio di Dedalo, ordinò che questi gli fosse consegnato. Ma le figlie di Cocalo non volevano separarsi dall'artefice che costruiva per loro splendidi balocchi e col suo aiuto tramarono ai danni di Minosse. Dedalo introdusse un tubo nel tetto della stanza da bagno e attraverso quel tubo versò acqua bollente o, come altri sostengono, pece bollente su Minosse che stava facendo un bagno tiepido. Cocalo, che aveva forse partecipato alla congiura, restituì poi il cadavere ai cretesi dicendo che Minosse, inciampando in un tappeto, era caduto in un calderone d'acqua bollente. I compagni di Minosse lo seppellirono con grande pompa e Zeus lo elesse giudice nel Tartaro, dandogli come compagni suo fratello Radamanto e il suo nemico Eaco. Poiché la tomba di Minosse occupava il centro del tempio di Afrodite a Carnico, egli vi fu onorato per molte generazioni da una folla di siciliani che vi giungevano per rendere omaggio ad Afrodite. Infine, le ossa di Minosse furono restituite a Creta da Aterone, tiranno di Agrigento. Dopo la morte di Minosse, le forze cretesi caddero nel più completo disordine e la loro flotta fu bruciata dai siciliani. Degli equipaggi costretti a rimanere oltremare, taluni fondarono la città di Minoa, presso la spiaggia dove erano sbarcati, altri la città di Iria in Messapia, altri ancora, marciando verso il centro della Sicilia, fortificarono una collina che divenne poi la città di Enguo, così chiamata per una fonte che vi sgorga vicinissima. Costruirono anche il Tempio delle Madri, che continuarono a onorare grandemente come un tempo nella loro nativa Creta. Ma Dedalo lasciò la Sicilia per unirsi a Iolao, il nipote auriga di Eracle Tirinzio, che guidò in Sardegna un gruppo di ateniesi e di tespi. Molte delle sue opere si ammirano ancora oggi nell'isola e sono chiamate costruzioni dedaliche. Ora Talo era anche il nome del servo di bronzo, dalla testa di toro che Zeus aveva donato a Minosse come custode di Creta. Taluni dicono che egli fosse l'unico superstite di una stirpe di uomini di bronzo nata dai Frassini, altri che gli fu forgiato da Efesto in Sardegna. Aveva un'unica vena che gli correva dal collo ai talloni, dove era tappata da un chiodo di bronzo. Era suo compito correre 3 volte al giorno tutt'attorno all'isola e gettare massi contro le navi straniere e anche di recarsi 3 volte all'anno con maggior calma nei villaggi di Creta, mostrando le leggi di Minosse incise su tavole di bronzo. Quando i sardi tentarono di invadere l'isola, Talo fece arroventare il suo corpo sul fuoco e poi distrusse i nemici in un abbraccio infuocato, ridendo malvagiamente. Ecco come nacque l'espressione risata sardonica. Infine Medea uccise Talo, strappandogli il chiodo dal tallone e facendo defluire il sangue dalla sua unica vena. Ma altri dicono che Peante, l'argonauta, lo colpì alla caviglia con una freccia avvelenata. Efesto è a volte descritto come figlio di Era e di Talo, e Talo come il nipote di Dedalo. Ma Dedalo era il membro più giovane della casa di Eretteo, che fu fondata molto tempo dopo la nascita di Efesto. Queste discrepanze cronologiche ricorrono frequentemente nella mitologia. Dedalo, lucente o elaborato con astuzia, Talo, che sopporta, ed Efesto, colui che brilla di giorno, si rivelano appunto per la similarità dei loro attributi come i diversi appellativi di un identico personaggio mitico. Icaro, da Io Carios, sacro alla dea lunare Car, può essere ancora un altro di questi appellativi. Infatti il dio fabbro Efesto sposò Afrodite, cui era sacra la pernice. La sorella di Dedalo, il fabbro, era chiamata Perdice, pernice. L'anima di Talo, il fabbro, si librò nell'aria sotto forma di pernice. Una pernice apparve alle esequie del figlio di Dedalo, Icaro. Inoltre Efesto fu scaraventato giù dall'Olimpo e Talo dall'Acropoli. Efesto camminava zoppicando e uno dei nomi di Talo era Tantalo, zoppicante. La pernice maschio zoppica nella sua danza d'amore con uno sperone alzato pronto a colpire i rivali. Anche il dio latino Vulcano zoppicava. Il suo culto fu importato da Creta, dove si chiamava Velcano, e aveva un gallo per emblema, perché il gallo canta all'alba ed era dunque un emblema appropriato per un eroe solare. Ma il gallo non giunse a Creta fino al VI secolo prima di Cristo, ed è dunque probabile che si sostituisse alla pernice, primo uccello sacro a Velcano. Pare che a primavera si eseguisse una danza erotica della pernice in onore della dea Luna e che i danzatori maschi saltellassero quasi zoppicando e portassero ali. Secondo San Gerolamo, in Palestina questa cerimonia, chiamata il Pesach, il saltellare, veniva ancora eseguita a Bet Hoglach, il santuario del saltellatore, dove i fedeli eseguivano una danza a spirale. Bet Hoglach è stata identificata con la sala di danza di Atad, dove si pianse la morte di re Giacobbe lo zoppo, il cui nome significa forse già Aceb, il dio tallone. Geremia invita i giudei a non prendere parte a questi orgiastici riti cananei e dice: «La pernice alleva i piccoli che non ha generato». Anafe, un'isola a nord di Creta legata a Minosse da un trattato, era famosa nell'antichità perché vi sostavano le pernici di passo. Il mito di Dedalo e Talo, così come la sua variante, il mito di Dedalo e Icaro, pare fonda la morte rituale del sostituto del re solare, munito di ali d'aquila e arso vivo sui falò primaverili, con la morte rituale del Farmacos dalle ali di pernice, un sostituto anch'esso gettato in mare dall'alto di un promontorio, nonché con la morte del re colpito al tallone da una freccia avvelenata. Ma la leggenda dei pastori e dei contadini che seguono con occhi ammirati il volo di Dedalo fu probabilmente tratta da una raffigurazione di Perseo o Marduk munito di ali. Il labirinto da cui fuggirono Dedalo e Icaro era probabilmente un pavimento a mosaico dove era tracciato lo schema della danza della pernice. Ma la leggenda di Dedalo che ripara in Sicilia, a Cuma, in Sardegna, si riferisce forse all'emigrazione dei fabbri indigeni da Creta dopo l'invasione ellenica. La prova della conchiglia e le esequie di Minosse nel tempio di Afrodite, cui tale conchiglia era sacra, ci fa supporre che Minosse in questo mito fosse identificato con Efesto, l'amante della dea del mare. La sua morte nella vasca da bagno è un episodio evidentemente tratto dal mito di Niso e Scilla. La controfigura celtica di Niso, Iulou, fu uccisa in bagno con un inganno e lo stesso accadde ad Agamennone, re sacro di Micene. Il nome di Naucrate, potenza di mare, si ricollega alle conseguenze storiche della sconfitta di Minosse in Sicilia, quando il predominio dei mari passò dalle mani dei cretesi a quelle dei greci. Il fatto che essa fosse una delle schiave di Minosse ci fa supporre che a Cnosso avesse luogo una rivoluzione di palazzo organizzata da mercenari ellenici. Se il nome Policasta, il secondo nome di Perdice, madre di Talo, significa Policassitere, molto stagno, esso appartiene senz'altro al mito dell'uomo di bronzo, l'omonimo di Talo. La supremazia cretese dipendeva in gran parte dal rifornimento di stagno da mescolare col rame di Cipro. Secondo il professore Cristoforo Oakes, la fonte più vicina era l'isola di Maiorca. Secondo Esichio, Talo era uno dei nomi del sole, dunque in origine Talo doveva compiere una sola volta al giorno il giro di Creta. Ma è anche probabile che tre pattuglie di armati si dessero il turno ogni giorno per sorvegliare i porti dell'isola e dare l'allarme nel caso che si avvicinassero i pirati. E poiché Talo, il sole, era anche chiamato Tauro, il toro, la sua triennale visita ai villaggi corrispondeva probabilmente al viaggio compiuto dal re sacro col viso coperto da una maschera di toro. L'anno cretese era infatti diviso in tre stagioni. L'abbraccio infuocato di Talo ricorda forse gli olocausti in onore di Moloch, alias Melkart, venerato a Corinto come Melicerte e probabilmente noto anche in Creta. Poiché questo Talo veniva dalla Sardegna, dove si narra fosse fuggito Dedalo inseguito da Minosse, e costituiva al tempo stesso un dono fatto da Zeus a Minosse, i mitografi semplificarono la vicenda attribuendo a Efesto, anziché a Dedalo, il merito di averlo costruito. Efesto e Dedalo sono infatti lo stesso personaggio mitico, il Sardonicus risus orrictus. Una contrazione dei muscoli facciali caratteristica del trisma era forse così definito perché l'uomo cervo, rappresentato negli antichi bronzetti sardi, socchiude le labbra nell'identico sogghigno. L'unica vena di Talo si ricollega al mistero dell'antico metodo di fusione del bronzo, detto della cera perduta. Dapprima il fabbro faceva un modello in cera che ricopriva con uno strato di creta e lo metteva al forno. Non appena la creta era ben cotta, estraeva la forma, praticava un foro tra il tallone e la caviglia per farne uscire la cera fusa e vi versava del bronzo pure fuso. Quando il metallo si era raffreddato, il fabbro rompeva la creta a colpi di martello liberando la statua di bronzo che aveva la stessa forma di quella di cera. I cretesi portarono in Sardegna questo metodo della cera perduta assieme al culto di Dedalo. Poiché Dedalo aveva imparato l'arte dalla dea Atena, nota come Medea a Corinto, la leggenda della morte di Talo nacque forse dall'errata interpretazione di una raffigurazione in cui si vedeva Atena che spiegava il metodo della cera perduta. La leggenda che vuole la morte di Icaro, provocata dalla fusione della cera, pare dunque appartenere piuttosto al mito di suo cugino Talo, poiché Talo, l'uomo di bronzo, è strettamente connesso con il suo omonimo, l'artefice del bronzo e supposto inventore del compasso. I compassi, che fanno parte del mistero della lavorazione del bronzo, erano indispensabili per tracciare cerchi perfetti quando si trattava di forgiare vasi, elmi o maschere. Ecco perché Talo era detto anche circino, circolare, un appellativo che si riferisce sia al corso del sole sia all'uso del compasso. Alla sua invenzione della sega fu data giustamente grande importanza. I cretesi si servivano con prodigiosa destrezza di piccole seghe circolari dalla doppia dentellatura per eseguire lavori minuti. Talo è il figlio di una ninfa dei Frassini, poiché la brace di legno di Frassino ha grande potere calorifico e veniva usata per la fusione dei metalli. Questo mito serve a chiarire anche la leggenda di Prometeo che crea l'uomo dall'argilla. Nella mitologia ebraica il ruolo di Prometeo è affidato all'arcangelo Michele che lavorava sotto la sorveglianza di Geova. La leggenda di Peante che colpisce Talo con una freccia ricorda la leggenda di Paride che colpisce Achille al tallone e anche la morte dei centauri Folo e Chirone. Questi miti sono strettamente connessi l'uno all'altro. Folo e Chirone morirono per le frecce avvelenate di Eracle. Peante era il padre di Filottete e quando Eracle fu avvelenato da un altro centauro gli ordinò di dar fuoco al rogo funebre. Filottete ottenne così da lui le frecce avvelenate e morì punto da una di esse. Paride ottenne in prestito delle frecce infallibili da Apollo Tessalo per uccidere Achille, figlio adottivo di Chirone, e infine, quando Filottete vendicò la morte di Achille colpendo Paride, si servì di un'altra freccia tolta dalla faretra di Eracle. Il re sacro dei Tessali, a quanto pare, veniva ucciso da una freccia intinta di veleno di vipera che il successore gli scoccava tra il tallone e la caviglia. Nel mito celtico il labirinto finì col rappresentare la tomba reale, e lo stesso accadde presso i greci primitivi, come si può dedurre dal fatto che l'Etymologicum Magnum definisce il labirinto grotta montana e Eustazio una grotta sotterranea. Porsena l'Etrusco si fece costruire una tomba a forma di labirinto e vi erano labirinti nelle grotte ciclopiche, vale a dire pre-elleniche, presso Nauplia, a Samo e a Lemno. Fuggire dal labirinto, dunque, significava reincarnarsi. Benché Dedalo sia considerato un ateniese per via del demo attico che prese il suo nome, le arti dedaliche furono introdotte in Attica da Creta e non viceversa. I balocchi che egli costruì per le figlie di Cocalo erano probabilmente bambole snodabili, simili a quelle che tanto piacevano a Pasifa e ad Arianna, e che pare venissero usate in Attica nel culto dell'albero di Erigone. E in ogni caso Policasta, sorella di Dedalo, si impiccò, così come si impiccarono le due Erigoni ed Arianna stessa. I messapi di Iria, più tardi chiamata Uria e ora Oria, erano noti nei tempi classici perché avevano usanze cretesi, si acconciavano i capelli a boccoli, portavano vesti ricamate a fiori e così via. Il vasellame colà trovato può essere datato al 1400 a.C., il che conferma l'ipotesi.